e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Chi deve cominciare stamattina? Cominciamo tutte e due con un bel buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Allora, torna oggi. Oggi di nuovo, perché la scorsa settimana hai fatto un cambio. Secondo te devo fare gli esami di maturità per gli ascoltatori? Se sono stati bravi alla scuola di risparmio, di investire denari? Potresti farlo. Questo corso di educazione finanziaria di Cuore Denari. Ti piace? Sì, mi piace tanto. No, tra l'altro, visto che tu ci stai dando tutte le tue pillole per affrontare al meglio questo momento così importante per gli studenti, magari sarà un bene anche che queste pillole vengano seguite dagli appassionati di scuola di risparmio, per l'appunto. Adesso ci penso, vediamo se la prossima settimana allora, viene in mente qualcosa. In attesa che tu ci pensi e soprattutto di sederci in classe, fammi salutare subito il nostro primo ospite che ho invitato per darci una straordinaria anticipazione. Parliamo di una nuova cura definitiva e non farmacologica per il diabete che sta per essere presentata al congresso internazionale di endoscopia che si svolge oggi all'Humanitas, quindi altro che attualità, e mi fermo qui. Siamo ancora prima, in linea con noi il professor Alessandro Repici, responsabile di endoscopia digestiva di Humanitas. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori e grazie per averci chiamato. Allora, professore, tra le novità presentate al congresso c'è questa nuova tecnica endoscopica che in futuro potrebbe evitare alle persone con diabete di assumere farmaci. Naturalmente, sottolineo la parola futuro perché non è immediatamente disponibile, sta per partire presso la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma e presso voi all'Humanitas una sperimentazione clinica di fase 2 per validarne l'efficacia. Ma professor Repici, la notizia è molto interessante, vorrei che lei ci aiutasse a entrarci dentro e a capire, quindi le chiedo, andiamo per ordine, stiamo parlando di una tecnica endoscopica, quindi? Esatto, stiamo parlando di endoscopia, significa accedere al nostro organismo, in particolare al nostro apparato digerente attraverso un tubo flessibile, attraverso gli orifizi naturali, sono il retto, la bocca. E questo ci consente di raggiungere delle parti del nostro organismo in maniera non invasiva, senza chirurgia, senza bisturi, ed è una delle cose che più in futuro rivoluzionerà la cura delle malattie, perché attraverso l'endoscopio riusciamo a portare dentro il nostro organismo anche dispositivi, pacemaker, riusciamo a introdurre farmaci, riusciamo a fare tantissime cose. E nello specifico per questa cosa che presentiamo al nostro meeting internazionale, abbiamo esperti da 31 paesi al mondo che si sono riuniti a Milano per discutere proprio dell'innovazione in endoscopia. Presentiamo i risultati preliminari di questo studio. Lo studio riguarda una popolazione enorme di pazienti, cioè i pazienti col diabete di tipo 2. Per darvi un'idea, in Italia ci sono circa più di 3 milioni di pazienti con diabete di tipo 2 e nel mondo ci sono diverse centinaia di milioni di pazienti con questo problema che hanno bisogno di prendere. Si parla infatti proprio di una pandemia, professor Repici, per i numeri. Tantissimo. È di una pandemia che si associa a tante conseguenze molto negative, perché lo scarso controllo della glicemia ha delle conseguenze importanti sul nostro tratto cardiovascolare, sulla funzionalità renale, su tante cose. Quindi il mantenere un buon livello di glicemia indipendentemente dal diabete, avere un approccio corretto anche con l'alimentazione, è sempre importantissimo. La tecnica che noi stiamo sviluppando e che stiamo testando in un circuito di 8 ospedali in Europa, tra le maggiori e più importanti istituzioni che si occupano di ricerca avanzata in endoscopia, è la seguente. Noi sappiamo che la parte finale dello stomaco e il duodeno, che sono facilmente raggiungibili con gli endoscopi, sono un po' la centralina che regola la secrezione degli ormoni nel nostro metabolismo. E sappiamo anche che i pazienti che sviluppano il diabete tendono ad avere una diversa differenziazione delle cellule di questo tratto. Le cellule invecchiano, non sono più flessibili come prima, abili come prima nel rispondere bene all'introduzione del cibo, perché soprattutto lì noi introduciamo uno stimolo che è il cibo, introduciamo calorie e il nostro organismo deve capire A, come utilizzare calorie, e B, le calorie in eccesso, dove metterle, dove sistemarle in un deposito. Allora, nel diabete di tipo 2 una delle cose che succede è che sia un'alterazione profonda di questi meccanismi regolatori. Noi vogliamo entrare dentro con gli endoscopi e utilizzando una tecnologia che in termini semplici diamo tanto calore, facciamo la termoablazione, quindi è come se esfoliassimo, togliessimo la parte superficiale, cioè la parte delle cellule che non funziona, e consentiamo alle cellule più giovani che stanno in profondità di venire su e di essere quelle invece più brave a produrre i loro ormoni e a regolare il nostro metabolismo. Infatti, professore, ho letto che questa nuova tecnica viene anche chiamata di ringiovanimento della mucosa duodenale. Proprio questo ringiovanimento racconta bene quello che lei ci sta spiegando. Sì, il ringiovanimento è necessario. Il mancato controllo del metabolismo glicidico è proprio legato al fatto che le cellule che abbiamo nel nostro duodeno stabilmente non riescono più a fare il loro lavoro. Noi abbiamo bisogno di pulire il duodeno, togliere queste cellule e far crescere delle cellule che abbiano invece una capacità diversa, molto simile a prima dello sviluppo del diabete. E questo nei risultati della fase iniziale dello studio sui primi 100 pazienti si è associato a un controllo della glicemia molto efficace e per un periodo prolungato. Noi oggi non siamo in grado di dire se questo varrà per sempre, cioè se fatto questo tipo di approccio poi il controllo della glicemia sarà per sempre, ma la fortuna dell'endoscopia è non solo per questa tecnologia ma in generale che l'endoscopia è ripetibile, si può reintrodurre lo strumento attraverso la bocca, quindi anche se alla fine lo studio dovesse dimostrare che il controllo della glicemia non è permanente ma è per alcuni anni, immaginatevi il vantaggio per alcuni anni per i pazienti a non essere legati all'assunzione delle compresse. Certo. Qual è il grande beneficio? La qualità di vita, ma anche il controllo permanente della glicemia, perché fare i picchi di glicemia su e giù è la cosa che dà il maggior danno ai nostri vasi, alle nostre arterie, alle nostre vene, ed è da lì che nasce poi la cosiddetta vasculopatia periferica, il rischio di avere... Quindi potrebbe evitare anche molte complicanze proprio per una gestione più corretta del diabete, anche se non fosse definitiva. Questo è fondamentale, questo è un concetto accentrato benissimo. Noi vogliamo non solo controllare bene nell'immediato, ma il controllo efficace nell'immediato si associa a un grandissimo beneficio nel lungo termine sulle complicanze del diabete, non soltanto sul mantenere la glicemia bassa. Professore, lo studio prevede l'arruolamento di altri pazienti, è sì. Corretto? Qual è il profilo che state selezionando? Quali indicazioni possiamo dare agli ascoltatori che sono interessati? Noi selezioneremo in Europa un numero relativamente piccolo di pazienti, circa 250-300, e cerchiamo dei pazienti che abbiano un diabete tipo 2 classico con un buon compenso e che utilizzino una o due medicine per controllare la loro glicemia. E chiaramente stiamo riferendo al diabete di tipo 2, quindi certo, sono esclusi da questa sperimentazione il diabete di tipo 1 che ha un meccanismo, diciamo, di origine della malattia completamente diverso che è legato all'insulina. Senta, professor Repici, se tutto come ci auguriamo procederà bene, anche noi ce lo auguriamo, ecco, quindi incrociamo le dita, in che tempi e soprattutto a chi sarebbe utile proporre questa tecnica? Allora, noi abbiamo cominciato a reclutare da questa settimana, quindi sul nostro sito sono disponibili le informazioni per accedere al nostro studio. È facilissimo, andando sul sito Humanitas, basta mettere qualsiasi parola chiave legata al diabete o endoscopie di diabete. Noi metteremo anche un link nella nostra pagina di Cuore Denari, così gli ascoltatori, che dici Deborah, sono più facilitati. Facciamo usare, certo. E come tempi noi contiamo di chiudere l'arruolamento in 12 mesi e di avere risultati nell'arco dei successivi 24 mesi, perché vogliamo essere molto scrupolosi. Questo è un tema fondamentale, non pensiamo di dire dopo 3 mesi che funzionerà. Dobbiamo seguire molto attentamente i pazienti, devono fare molti esami del sangue, devono essere seguiti in maniera molto approfondita, perché vogliamo dare delle risposte certe. A 2 anni dall'intervento vogliamo avere un'idea. Sì, non la sentiamo molto bene, professore. Lei può... No, vi chiedo scusa. Ah, ecco. Meglio perché si è avvicinato a noi. Quando uno si avvicina a Cuore Denari diventa tutta un'altra persona. Senta, professore, però le novità, quindi noi posso mettere lì circa 3 anni tra arruolamento. Sì, esatto, mi sembra un tempo ragionevole. Le novità però non finiscono qui, perché ho letto che state completando uno studio a cui hanno partecipato anche la Mayo Clinic e l'Indiana University, che ha proprio l'obiettivo di sviluppare anche in questo caso una nuova tecnica, questa volta per l'asportazione dei polipi del colon. Anche questo, naturalmente, l'obiettivo è di garantire, arrivare ad una resezione efficace ma anche molto molto sicura. Professor Repici, ci dà qualche anticipazione? Così l'ho presa per una. Sì, qua siamo molto più avanti. Lo studio è stato finito e noi abbiamo l'orgoglio di dire che questa è una tecnologia che viene dall'Italia, che viene da Milano, quindi sempre sempre orgogliosi di questo, dello sviluppo che arriva da noi, dalla nostra ricerca. Lo studio ha coinvolto anche Mayo Clinic e Indiana University ed è legato allo sviluppo di una particolare sostanza che noi iniettiamo sotto il polipo per garantire che si stacchi in maniera adeguata dalla sua base e che venga asportato con sicurezza. Tenga conto che il tema dei polipi del colon è un tema anche lì endemico. Il cancro del colon è la seconda causa di morte nel mondo per tumore, sia negli uomini che nelle donne, ed è il tumore più facilmente prevenibile. Facendo la colonoscopia nel programma di prevenzione si possono identificare i precursori del tumore. Questa è l'unicità del tumore del colon. Il tumore del colon nasce da un precursore che è il polipo. Una volta fatta la colonoscopia, però, è trovato il polipo va tolto, va tutto bene, in maniera adeguata, in maniera completa, per evitare che poi nella sede della asportazione ricresca tessuto patologico e venga il cancro. Proprio per questo noi abbiamo sviluppato questa tecnica e questa tecnologia, un liquido particolare che consente di sollevare in maniera permanente il polipo dalla sua base e di aspostarlo in sicurezza. Lo studio è stato completato, è stato presentato negli Stati Uniti un mese fa con grande successo. Lo studio ha dimostrato che, confrontando con la tecnologia precedente, questo tipo di approccio garantisce una resezione, un'asportazione più completa, più efficace, ma anche più sicura. Bravi. E quindi siamo veramente contenti di aver portato un po' di ricerca italiana negli Stati Uniti. Bravo, fatto assolutamente. Il Made in Italy. Anteprima. Questa è una bella anteprima, come quella della tecnica che abbiamo visto a tempi più lunghi, ma risolverebbe un problema molto molto importante, quello di una cura non farmacologica del diabete, ma soprattutto anche le complicanze di questa malattia. Professor Repici, per i polipi, per questa tecnica invece è già disponibile, quando lo sarà? Sì, io penso che da noi è già disponibile, sarà, il prodotto verrà messo in commercio rapidamente, è già in commercio da qualche settimana negli Stati Uniti, perché l'ente regolatorio statunitense, l'FDA, è stato molto più rapido e ora credo che anche l'approvazione europea arriverà in questi giorni, quindi una tecnologia che diventerà patrimonio di tutti noi a brevissimo. E se potete invitare tutti i vostri ascoltatori a fare la colonoscopia dopo i 50 anni, perché questo previene il cancro del colon, un messaggio importantissimo. L'Italia su questo ha ancora molto da fare. Gli altri paesi europei hanno un tasso di aderenza alla colonoscopia molto più alto dell'Italia. L'Italia sta facendo uno sforzo enorme, ma deve farlo ancora più grande per prevenire il cancro. L'obiettivo che siamo dati negli Stati Uniti è che entro i prossimi 3 anni l'80% della popolazione riceva la colonoscopia, 80% superiore ai 50 anni. Io direi che l'obiettivo italiano deve essere che nei prossimi 5 anni proviamo ad abbattere l'incidenza del, quindi, cancro dopo del i 50 colon, anni la colonoscopia. Questo è un messaggio importante, mi raccomando, seguiamolo. Professor Repici, la lascio al suo congresso e la ringrazio per queste anticipazioni che ha voluto dare a cuore denari. Adesso andiamo di corsa a sentire le informazioni sul traffico e poi parliamo di allenamento. Cerchiamo di sostenere i nostri ragazzi che stanno per affrontare la maturità. Abbiamo messo a disposizione tanti esperti, ma il nostro mental coach, a tra poco. Cuore e denari. Passo dopo passo continua la nostra marcia di avvicinamento all'inizio della maturità, che è fissato, Deborah, mercoledì 21 aprile. Pensa quando ci saranno i tuoi nipoti. Il puntatone, mamma mia. Mamma guarda, già. Una ha fatto l'esame di violino, ha preso ottimo. Te lo bravo, dico. Bravo, così, bravissimo. Allora, però, insomma, la maturità è un momento importante, naturalmente, che i nostri ragazzi vivono in prima persona, ha un po' di ansia, un po' di paura, ce la farò, dobbiamo, insomma, cercare di arrivare preparati, e naturalmente anche la famiglia viene coinvolta. Quanti dei vostri amici hanno detto, oh mamma mia, ho l'esame di maturità, ma non io, ma il mio ragazzo, mio figlio, mia figlia. Allora, noi, insieme a tutti i consigli che vi stiamo postando sulle nostre pagine, abbiamo parlato di prima colazione, abbiamo parlato dell'importanza del sonno, abbiamo deciso di fare un passo in più, mettere a disposizione dei vostri ragazzi e anche di voi genitori all'ascolto il nostro mental coach Giovanni Gabrielli, che è in linea con noi. Ciao Giovanni. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori. L'esame è il 21 giugno, non il 21 aprile. No, sì, hai ragione. Io ho detto aprile. Bravo, vedi come è attento. Come attento. Io ho detto, me la sono mangiata. Vedi, devo venire. 21 giugno, ormai è siamo alle porte. Senti, Giovanni, io volevo dire, e questo lo dico in modo preciso e corretto, che hai elaborato per gli ascoltatori di Cuore Denari un decalogo. Pensato appositamente per i ragazzi, ma anche un po' per i loro genitori. Allora, se tu sei d'accordo, io inizierei a dare un po' un assaggio del tuo metodo, che come abbiamo sottolineato tante volte è molto concreto, dà delle indicazioni che ti mettono nella condizione di fare, e inizierei a metterci a studiare. Quindi sediamoci alla scrivania, perché ci vuole anche un luogo in cui studiare, prepararsi. Giovanni. L'ambiente, guarda, Nicoletta, l'ambiente molto spesso viene sottovalutato, invece è importantissimo, perché è quello che nutre poi il nostro inconscio. Deve essere un ambiente che garantisca una buonissima tranquillità, quindi non rumoroso, eccetera, che garantisca una buona concentrazione, un ambiente comodo, quindi anche la seduta, la seggiola deve essere una seggiola comoda. E deve essere un ambiente specialmente che evochi nella nostra testa delle sensazioni positive, cioè un ambiente veramente dove stiamo bene. Per quello che riguarda il tavolo di studio, anche questo è importante. Io vi do alcuni suggerimenti. Naturalmente i miei suggerimenti non sono comandamenti, vanno poi soggettivizzati in base alla realtà di ognuno. Sono dei suggerimenti, non regole fondamentali da seguire al 100%. Ecco, sono quindi spunti, idee. Ecco. Spunti, idee, non cose che, se vengono fatte, garantiscono l'esame, un buonissimo risultato all'esame. Sono facilitatori. Quindi io suggerisco sempre, la scrivania ideale dovrebbe essere rettangolare di legno, perché il legno è un qualcosa che nutre proprio la nostra concentrazione, abbastanza ampia, pulita e sgombra. Cioè, non facciamo un po' di feng shui della scrivania, deve essere pulita e sgombra. Io consiglio agli studenti che ci stanno ascoltando di mettere solamente il materiale che serve a quella sessione di studio, non tutti i libri di tutto il programma, ma se studiamo italiano solamente i libri, gli appunti di italiano, quindi pulita e sgombra. Mettete molto rosso. Cercate di mettere delle cose rosse sulla scrivania, perché il rosso nel feng shui dà energia e forza, quindi più rosso mettete e più positiva sarà la vostra concentrazione. Per il tavolo possiamo proprio parlare di uno yin e uno yang del tavolo. Lo yin è rappresentato dallo studio e dalla conoscenza, lo yang invece dal ricevere persone, prendere decisioni, eccetera. Quindi, siccome si parla di studio e conoscenza, la scrivania sarà yin, e quindi può essere per questo anche posizionata di fronte al muro. Anzi, io suggerirei questo perché dà maggiore concentrazione. Evitiamo di avere la porta alle spalle, perché il nostro inconscio non vede quello che succede, e quindi una parte della nostra attenzione è sempre data, è un po' allerta, c'è qualcuno dietro, eccetera. E quindi se non è impossibile, chiaramente non si possono fare dei lavori di ristrutturazione, se la porta è alle spalle, suggerisco di dotarsi di una seduta con una spalliera alta che offra protezione al nostro inconscio. Allora, Giovanni, fermiamoci perché abbiamo il GR. Ritorniamo subito dopo, perché accenderemo poi la testa dei nostri ragazzi, e anche un consiglio per i genitori. Subito dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 su Radio 24 e su radio24.it. Cuore e denari. E siamo tornati insieme, abbiamo messo a posto la scrivania, più o meno a posto, se vedessero le nostre, Deborah. E per fortuna che non ci abbiamo gli esami. Ci vuole anche un posto, il posto giusto, attrezzato nel modo giusto per accendere la mente, quindi studiare. Ne stiamo parlando con il nostro mental coach Giovanni Gabrielli, che ha pensato per gli ascoltatori di Cuore Denari ad un decalogo di indicazioni, consigli, non sono Giovanni... Sono suggerimenti. Allora, abbiamo messo a posto la scrivania con delle indicazioni che tu hai preso dal Feng Shui o Feng Shui, che insomma la pronuncia si pronuncia in diversi modi, non so quale sia quella più corretta. Io l'ho pronunciato, Nicoletta, in bolognese. Ecco, va bene, allora io la pronuncio in Torin milanese. Io vi lascio fare, neanche allora, quindi poi tu hai pensato di dare anche nel tuo decalogo dei consigli ai genitori, perché diamo l'esame con loro, diciamo la verità. Ecco, allora mi ricollego a quello che hai detto te, Nicoletta, l'esame non è dei genitori ma è dei figli, quindi bisogna lasciarli molto tranquilli da questo punto di vista. Il genitore deve essere il primo tifoso del ragazzo, della ragazza che sta affrontando gli esami, non deve essere un allenatore, non deve essere un dirigente, ma deve essere un tifoso. Per questo è importante non crearsi e non creare aspettative sul voto. Il voto è qualcosa che non decidiamo noi, è la conseguenza. Quindi creare delle aspettative su un voto significa depotenziare il ragazzo o la ragazza. Quindi il risultato dell'esame è la ciliegina su un percorso durato 5 anni. Non facciamoci delle aspettative su un voto che non è completamente sotto il controllo dello studente. 4 parole chiave. Il genitore deve essere disponibile, deve favorire la tranquillità, eccetera, non essere un qualcosa che va a scapito della tranquillità. Si deve caratterizzare il genitore per le assenze, e cioè non deve essere sempre presente. L'esame non deve diventare una monoidea. C'è anche dell'altro, c'è della vita. Quindi l'esame è una parte della vita che continua a scorrere sui binari della normalità. Quindi evitiamo di passare un mese a parlare solo di esame, a vivere solo per l'esame. Deve essere un genitore non invasivo e che non crei pressioni con le minacce, con le preoccupazioni. Ognuno si deve tenere lo stress. L'allievo, lo studente ha già la sua buona dose di ansia e di stress, il genitore si tenga il suo di stress, si tenga la sua di ansia e non la ceda a quella dello studente che andrebbe ad incrementarsi. Quindi è molto importante questo. E divertitevi assieme. L'esame sarà un momento veramente di mezzo, di passaggio fra l'età dell'adolescenza e l'età adulta. Sarà qualcosa che ci si ricorderà nel tempo. Quindi bisogna gustarne ogni minuto, anche i minuti di preoccupazione, di ansia, di stress, perché ce lo ricorderemo sempre. Gustatevelo, non deve essere una minaccia, non è la fine di tutto, quindi viviamolo come qualcosa che fa crescere. Stefano da Monza ci scrive: questa trasmissione la farò ascoltare a mia moglie, visto che sembra che sia lei e non mio figlio a fare l'esame. Ma vi diciamo di più: sulle nostre pagine Facebook Giovanni Gabrielli si mette a disposizione per una sorta di pronto soccorso, possiamo chiamarlo così, SOS Mental Coach. Sì. Ecco, quindi se volete scrivergli, se volete invece invitare i vostri ragazzi a farlo, e soprattutto andate a leggere il decalogo che Giovanni Gabrielli ha preparato per voi, e contiene tante altre suggerimenti e spunti, da come accendere la mente a come prepararsi per l'esame, al tris del successo e quanto altro. Ma intanto con Giovanni Gabrielli vi sentirete spesso sulle nostre pagine Facebook e lo sentiremo anche in diretta. Giovanni, ti ringraziamo molto. Posso dire una cosa, Nicoletta? Sì. Per affrontare lo studio dell'esame non ci sono trucchi o scorciatoie, né tecniche che permettono di vincere sicuramente. Esistono solamente 4 cose, fissarsi un obiettivo, programmare, darsi un metodo di studio ed essere motivati verso quello che si sta facendo. Questi sono veramente i pensieri e le parole chiave per il successo. Le scorciatoie lasciamole ad altri. Allora, molti ascoltatori ci scrivono, anche mia moglie ne avrebbe bisogno, grazie Tiziano. Tutte noi, io, meno male che le maturità le mie le hanno già date e via. Adesso cambiamo argomento, parliamo di un prodotto che a Deborah piace, vero? Ah sì, sì. Ecco, molto probabilmente anche voi, se lo bevete in alternativa al latte vaccino o lo usate per macchiare il caffè, preparare il cappuccino, per ammorbidire l'impasto delle torte, sappiate che da oggi, anzi da ieri, qualcosa è cambiato, non nella sostanza, diciamo nella forma, o meglio nella dicitura. La faccio breve. Come avrete sentito, una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che i prodotti puramente vegetali non possono essere commercializzati con denominazione come latte, che il diritto dell'Unione riserva ai prodotti di origine animale, quindi è latte quello che producono le mucche, le pecore, le capre, e non quel liquido che viene prodotto ad esempio dalla soia, dal riso, dalle mandorle. Lo stesso vale naturalmente per i derivati, quindi burro, yogurt, formaggio, eccetera eccetera. Uomo avvisato, non dobbiamo più sbagliare. Intanto salutiamo Attilio Speciani, quando lo invitiamo noi non sbagliamo mai, facciamo sempre una cosa giusta. Buongiorno, bentornato. Buongiorno. che brave che siete, grazie. Lei... lo ridite così la giornata diventa ancora più bella. Bravo, che uomo. Lei, tra l'altro, è avanti, non per dire, ma è da un pezzo che a Cuore Denari, esatto, ci invita a non usare la parola latte in modo improprio. Eh sì, anche perché devo dire che in altri paesi europei la cosa era già nata ed è una discussione specifica. In più, a me piace proprio differenziare, perché spesso e volentieri si usa in sostituzione del latte, e quindi chiamarlo ancora latte è un po' una mistificazione. Preferisco chiamarlo bevanda vegetale a base di mandorla, di soia, di riso, di quello che possa essere. E da sempre questo, voi sapete che io sono un fanatico della trasparenza, dalle etichette alla comunicazione, e quindi mi ha sempre fatto piacere. Abbiamo anticipato i tempi, va? Bene, diciamo dai, perché noi dobbiamo stare, Deborah, nella sull'attualità. Però a volte l'anticipiamo, non è colpa nostra, siamo fatte così, speriamo che la colgano. Jessica Rabbit. Comunque, lei l'ha anticipato, ci sono diverse varianti di bevande vegetali, le più comuni sono quelle a base di riso, di soia, però basta andare al supermercato per trovarne tantissime altre, fatte con avena, miglio, quinoa, nocciole, cocco, mandorle. Dottor Speciani, chi più ne ha più ne metta. Però, considerando che ogni bevanda vegetale, immagino, abbia le stesse caratteristiche e proprietà del cereale o della frutta secca dal quale viene prodotto, ci aiuta un po' a scegliere bene, iniziando magari a farci una sorta di carta d'identità nutrizionale di quelle più comune, così che possiamo scegliere quelle, parlo al plurale perché anche per la nostra alimentazione, come Deborah ci insegna, per gli investimenti bisogna diversificare, quelle più adatte alle nostre esigenze, al nostro stile di vita, a quello che, di cui abbiamo bisogno, anche al momento che stiamo affrontando. Dottor Speciani. Io direi che l'ha già anticipata Nicoletta, ed è l'elemento fondamentale, cioè distinguere fra il grande gruppo delle bevande derivate da cereali e il grande gruppo delle bevande derivate da semi oleosi. È importante perché la differenza tra una bevanda di miglio, una bevanda di riso, che sono quindi derivate dalla spremitura, dalla compressione dei cereali, e invece quelle che derivano, ad esempio, una bevanda di mandorla piuttosto che di nocciola, in realtà cambia il contenuto proteico. Ovviamente dai cereali poco si estrae, e in più nei cereali c'è anche poco olio. Cosa succede? Succede che nelle bevande derivate da cereali viene sempre o quasi sempre addizionato un po' di grasso per raggiungere la percentuale di grasso che c'è nel latte vaccino, no? Quindi per aumentarla un po'. Mentre, per cui io, alcuni mi piacciono e quindi li mangio per gusto, però tendenzialmente io preferisco le bevande che vengono estratte da semi oleosi, perché hanno dentro il loro grassino naturale e hanno un contenuto di proteine che non è sufficiente ovviamente per sostituire in una nutrizione il latte, però ci si avvicina e inizia ad avere dei valori più significativi. Se io devo nutrire un bambino con una bevanda alla soia, riesco in parte a raggiungerlo. Se devo farlo con una bevanda alla mandorla, mi è difficile, serve un'integrazione. Però già a partire da queste bevande, quando uno sa che, sapete che io bilancio sempre carboidrati e proteine, e quindi è un elemento. Io non so se faccio bene, ma faccio un po' degli intrugli, perché mescolo le bevande vegetali. Faccio una base e aggiungo, ad esempio, oggi avevo un pochino di bevanda di riso, avevo quella di mandorla, io le alterno anche al latte vaccino e vengono quindi delle bevande, voglio sbagliarmi proprio a dire latte, già ho fatto partire la maturità il 21 aprile, quindi erano già promossi, erano già laureati. Se sono bravi cominciano a studiare presto. Bisogna vedere se prima in ritardo o in anticipo, va bene mescolare, quindi fare una bevanda. Va benissimo, che... tra l'altro... Se vogliamo dare anche un elemento così di memorizzazione per uno schemino specifico, qual è il miglior latte? Allora, io dico che abbia delle proteine spontanee, che non abbia zuccheri aggiunti, perché se uno utilizza una sostituzione, no? E quindi toglie il latte vaccino e passa ad una bevanda, è vero che nel latte vaccino c'è uno zucchero naturale che è il lattosio, nella bevanda di qualsiasi tipo sia ci deve essere, non ci vuole lo zucchero aggiunto, non serve ricreare aggiunta di calcio perché si altera il gusto della bevanda stessa, ma è qui vale il discorso della miscelazione, che piaccia, che una piaccia. Persona deve poterlo gustare con piacere, quindi se serve aggiungergli poi della fibra, se serve aggiungergli delle proteine come mandorle, nocciole o d'altro, se serve per la propria attività, quindi miscelandolo con dei particolari fiocchi di cereali o con gli stessi fiocchi di soia, ecco che la bevanda, comunque essa sia, deve piacere. Quindi benissimo Nicoletta per la miscelazione, e quindi proteine spontanee senza zucchero e calcio aggiunto e col gusto migliore che possa avere per iniziare bene la giornata. Dottor Speciani, grazie, l'aspettiamo qua prestissimo. Esatto. Assolutamente, per una diretta Facebook con i nostri amici. Che così lo guardano in tutta la sua bellezza e simpatia. Grazie. Bravura e la terza qualità stamattina. No, stavo pensando che io invece stamattina ho fatto il mix tra l'avena e la soia. Vedi che oggi mescolavamo. Oggi è così, hai visto? E perché oltre che a vestirci con più o meno con gli stessi colori, oggi no. Oggi no, ma... Però vedi che abbiamo mescolato le bevande vegetali. Sono di umore strano, quindi sono io che cambio strada sti giorni, non lo so. Grazie, dottor Speciani, a presto. Grazie a voi. Se vuole rimanere con noi a sentire anche Investire Informati, ci fa piacere, perché quello di oggi è un tema, secondo me, molto modestamente interessante. Sicuramente è di... Nicoletta? Attualità, che attualità, anzi anche un po' di prima dell'attualità. Speriamo di no, perché parliamo di scoppio di bolla del settore tecnologico. Speriamo di non anticiparla, perché in realtà questo è un timore diffuso negli Stati Uniti. Quindi siamo scaramantici. Esatto. Parlarle per allontanarne. Brava. Bravissima, guarda, per essere un vengono, po' così, sarà il mental coach. Un po' streg fattucchiere. Allora, in queste ultime settimane abbiamo provato a fare tanti ragionamenti, chi ci segue lo sa bene per ovvie ragioni di cronaca, sullo stretto rapporto che c'è tra politica e mercati finanziari, perché da oltre un anno a questa parte abbiamo avuto modo di testimoniare come i grandi eventi politici abbiano condizionato le scelte di mercato degli investitori. Il primo test importante, se rimettiamo indietro le lancette dell'orologio circa un anno fa, è stato il referendum su Brexit. Il 24 giugno, poi ci sono state le elezioni americane, il piccolo ma comunque significativo referendum italiano, anche se in realtà pesa un po' di più il dibattito che non ha conclusione sulla nuova legge elettorale del nostro paese. Il 2017 poi come è iniziato? Con le elezioni in Olanda, in Austria, c'è stata quella francese molto importante tra aprile e maggio, le politiche britanniche, la delusione per la premier Theresa May, e mentre i temi politici un po' ci distraggono, un po' ci confondono, negli Stati Uniti, che guarda anche continuamente alle sortite di Trump, adesso abbiamo questo nuovo pericolo per un possibile impeachment davanti al Senato, serpeggia una paura che molti tendono a non considerare, che molti altri invece temono e quindi suggeriscono di cominciare a prendere qualche misura precauzionale. La bolla del settore tecnologico, il timore, come vi dicevo, riguarda in particolar modo negli Stati Uniti. Agli inizi del 2000, quando tutto il mondo non aveva grande confidenza con questo settore, ne è scoppiata una e molti italiani si sono fatti male in quella circostanza. C'era anche un indice italiano, si chiamava Numtel, che poi è scomparso nel 2015, sostituito da altri listini. E in quell'indice si quotarono tante aziende tecnologiche, ma metto le virgolette perché in realtà poi erano tanti sogni svaniti nel nulla, sono poi scomparsi nel nulla insieme all'indice. Oggi cosa sta succedendo? Lo chiediamo tra un po' al nostro ospite, ma lo chiediamo anche a voi. Se state seguendo questa tendenza, raccontateci che cosa ne pensate all'800 24 lo 0024. Lo sapete che cosa sono i titoli FANG? FANG? Questa te l'aspettavi stamattina? partiamo con la nostra scuola di risparmio. Thanks. Investire informati. Sono il maggiore esperto mondiale di Mac, John. Qual è il tuo curriculum? Dai indicazioni contraddittorie, sei insubordinato, rendi le persone infelici. I nostri migliori tecnici scappano alla Sand, LHP, Wall Street non sa chi è al volante. Abbiamo perso di valore per centinaia di milioni e io sono la D di Apple, Steve. Ecco il mio curriculum. Ma prima di questo vendevi acqua gassata e zucchero, vero? Io invece mi sono chiuso in un garage con Wozniak e ho inventato il futuro, perché gli artisti guida nelle mezze tacche vanno alzata di mano. D'accordo. Beh, quest'uomo è fuori controllo. Sono prontissimo a rassegnare le mie dimissioni stanotte, ma se volete che io rimanga, non potete avere Steve. Trovate un accordo. Bellissimo film che ricostruisce la vita di Steve Jobs, ma noi non parliamo solo di lui questa mattina, ma di tutte quelle altre società tecnologiche americane che hanno delle quotazioni che hanno dell'incredibile. Allora da qui partiamo con Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim, una sim indipendente che salutiamo. Benvenuto a Cuore e Denari, al suo esordio in questa trasmissione, quindi vediamo se passa stamattina il suo personalissimo esame di maturità. Riboldi, buongiorno. Grazie mille, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Tanto per non esatto. mettere ansia. Chissà se ha fatto colazione con la bevanda di soia o con il latte vaccino. Ahimè, c'ho qualche capello bianco in testa, quindi l'ansia è difficile che ce l'abbia, ma comunque, va vediamo. Bene. Più tardi, tra qualche minuto, ci collegheremo anche con il nostro inviato speciale nel mondo delle curiosità finanziarie, che è il nostro collega Enrico Marro, che sulla tecnologia, sull'high-tech americano, appunto, ha qualche notizia appunto da raccontarci. Intanto, ribadisco i nostri ascoltatori l'800240024 per intervenire in diretta. Vi ricordate lo scoppio della bolla del 2000 che, come dicevo prima, ha fatto male a qualcuno? Poi magari ricorderemo anche alcuni dei nomi famosi delle società che componevano questo indice. Però pensate che se da una parte qualcuno teme lo scoppio della bolla tecnologica a stelle e strisce, e noi un paio di giorni fa abbiamo avuto qualche segnale di aggiustamento, anche ieri qualche fermento appunto sul Nasdaq americano, c'è l'altro indice statunitense, invece il Dow Jones, che continua a mettere a segno un record dietro l'altro e ieri sera ne ha fatto uno nuovo. È un mercato a due facce, oppure Wall Street è destinata a correre senza freni e a mantenere la sua reputazione di piazza preferita dagli investitori di tutto il mondo? Riboldi, le chiedo la sua prima impressione generale su questo argomento. L'impressione generale è che la borsa americana, guardando in un contesto di lungo periodo, oggi è sicuramente come valutazioni abbastanza cara, dico abbastanza perché la vera bolla, quella che ha portato a valutazione di prezzo utili medio di tutta la borsa americana di 35 volte, era quella del 2000, in cui sicuramente si era arrivati su dei livelli di valutazioni non visti negli ultimi 100 anni, è stata come valutazione anche più alta delle valutazioni raggiunte nel lontano 1929, quindi quella era stata guidata alla bolla del 2000 dei titoli del famoso TMT, Telecom Media Technology, con valutazioni che poi non guardavano solo le aziende americane ma anche le aziende europee, ricordiamoci il Tiscari che valeva a un certo punto più di Fiat, ricordiamoci esatto. anche Deutsche Telekom a 100 euro, oggi sta a 15, Telecom Italia che aveva seguito e parecchi settori anche di media italiani, quindi diciamo che quella bolla lì è stata sicuramente quella che forse è stata la più clamorosa, cioè senza forse la più clamorosa degli ultimi 100 anni e ero già operativo da qualche anno sui mercati, mi ricordo che in quei momenti lì era veramente per noi value investor, cioè gestori abituati a guardare valutazioni delle aziende per investire, era veramente qualcosa che faceva paura. Oggi non siamo assolutamente su quelle valutazioni lì, però sicuramente la borsa americana in un contesto di lungo oggi sta trattando circa 20 volte gli utili correnti, cioè attesi per il 2000, per il 2017, che è una contro la media storica di 16 volte gli utili. Questo però in un contesto in cui è parzialmente giustificato questo multiplo elevato dal fatto che i tassi a 10 anni sono particolarmente bassi. Noi siamo certo. in una situazione in cui i tassi a 10 anni sono bassi, sia perché l'inflazione è storicamente bassa, viaggiamo un'inflazione poco sotto il 2% in America, poco diciamo intorno all'1% in Europa, quindi in un mondo diciamo a bassa inflazione è normale che i multipli siano alti, la correlazione è esattamente opposta, cioè storicamente prezzi utili, rapporti prezzo utile delle società quando l'inflazione è alta tendono a diventare più bassi, quando l'inflazione è bassa come in questo momento i multipli di borsa, quindi il rapporto prezzo-utili, tende aumentano. Ad aumentare. Non ci dimentichiamo che c'è ancora un bel po' di liquidità in circolazione, che è stata che è quella appunto che viene fatta circolare dalle banche centrali, anche se ieri sera c'è stata l'iniziativa della Federal Reserve che ha messo a segno un nuovo rialzo dei tassi di interesse, sì, ma sono ancora molto bassi anche negli Stati Uniti, per non parlare di quanto siano generosi in Europa. Allora Riboldi, ci dobbiamo fermare per un attimo, perché a proposito di borsa devo raccontare adesso molto rapidamente quello che sta succedendo questa mattina, ma continueremo ad esplorare appunto lo stato di salute della tecnologia americana. Adesso andremo al dettaglio della storia dei titoli FANG. Sono Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, quindi questo acronimo arriva proprio dal nome di queste cinque società regine della tecnologia non americana ma mondiale, sono le più note tech stocks. Fra un po' ripartiamo da questo anche con Enrico Marro, adesso la borsa, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. La gente vuole andare su internet per sapere cosa fanno gli amici. Serve un sito web che glielo permetta. Amici, foto, profili. Voglio prendere la vita sociale dell'università e metterla online. Il sito ha avuto 2200 contatti in 2 ore. Di più, ne ha avuti 22.000. E questo è un brano tratto invece dal film The Social Network, perché naturalmente anche di Facebook parliamo questa mattina, ma non delle nostre abitudini sui social network, bensì di Facebook e di altre aziende come società sulle quali investire. A quanto pare il mercato si sta un po' allontanando dal settore high tech americano, il tema di cui parliamo questa mattina con Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim, ma adesso abbiamo anche l'atteso collegamento con il nostro Enrico Marro, collega del Sole 24 Ore, che definiamo sempre il nostro inviato speciale nel mondo delle curiosità finanziarie. Enrico, buongiorno e ben ritrovato, perché da un po' che non ti sentiamo, intanto eccoci. Buongiorno. Allora, anche Enrico con per il Sole, per il sito del Sole 24 Ore, ha analizzato il tema delle FANG. Fino a pochi giorni fa erano le regine della borsa americana, cinque società che da sole avevano prodotto valore per quasi un terzo del PIL italiano in appena 6 mesi. Poi, Enrico, sono arrivati due rapporti di due grandi case di investimento, uno in particolar modo è pesato molto per le sue valutazioni negative. Ci racconti che cosa ha detto esattamente Goldman Sachs, al punto da provocare questa frenata molto consistente per tutto l'indice tecnologico americano, in particolar modo per il Nasdaq Composito, che dopo aver toccato dei record appunto ha invece ingranato la marcia indietro. Sì, ecco, Goldman Sachs ha semplicemente riportato tutti un po' con i piedi per terra, perché, come giustamente dicevi tu, questa serie di società, queste cinque società che hanno creato questo buffo acronimo FAMG, cioè Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, avevano corso tantissimo. Una cosa che tra l'altro fa anche un po' sorridere, perché quando si insediò Trump in novembre, qualche analista aveva previsto momenti non facili per le società tech della Silicon Valley. È vero, che invece sostenevano Hillary in massa, con poche eccezioni. Invece sono andate benissimo, merito anche della volatilità bassissima. Ma questo, tanto che abbiamo visto, hanno polverizzato diversi record negli ultimi giorni, nelle scorse settimane. Amazon e Alphabet, che è la società madre di Google, avevano anche superato la soglia psicologica dei $1,000 per azione. E poi semplicemente Goldman Sachs ha riportato tutti con i piedi per terra, parlando di air pocket, bolla d'aria, ricordando come questa corsa abbia reso estremamente cari alcuni di questi titoli, in particolare Amazon, che viaggia un rapporto prezzo-utili, la sola Amazon, superiore a quello che aveva ai picchi della bolla tecnologica di fine millennio. Da questo però a dire che si ripeterà il triste scenario della bolla dei titoli tech del 2000 ne passa, anche perché mentre 10 anni fa l'intero comparto tecnologico valeva appena il 16% della capitalizzazione del listino, ora è pari al 23%, e questo significa che queste società sono molto ben capitalizzate, sono più solide. Adesso hanno in cassa queste cinque società un signor tesoretto da 340 miliardi di dollari di liquidità, che rappresenta il 13% del valore dell'impresa, mentre ai tempi della bolla del 2000 le prime 5 società tecnologiche, che allora erano sempre Microsoft, Cisco, Intel, Oracle e Lucent, avevano in cassa solo 45 miliardi. È così, bricioline. Questo rappresentava solo il 2% del loro valore. Le società tecnologiche che invece componevano il listino italiano avevano solo dei gran debiti, Enrico, non ci avevano un granché in tasca, tanto che praticamente sono quasi tutte scomparse anche dalla cronaca finanziaria, sono rimaste ben poche sopravvissute. Stavo riguardandomi adesso, aprendo un sito, stavo provando a ricostruire la storia del NUMTEL, l'indice tecnologico italiano, che è nato il 18 giugno del 99 e appunto all'interno racchiudeva quelli che erano noti come i titoli della New Economy italiana. Passò questo indice dai 1200 circa punti del 18 giugno del 99 ai 18.000 del marzo del 2000, quindi aveva avuto un incremento di quasi del 1300% in 9 mesi. Come poteva non scoppiare questa situazione? E infatti precipitò nel giro di poco, e il 31 gennaio del 2005 il NUMTEL ha cessato di esistere. Borsa Italiana appunto ha rimodulato gli indici e al suo posto sono stati creati i nuovi indici Techstars, Star All Stars e poi tante altre riorganizzazioni. La prima società a quotarsi fu OpenGate ed è stata anche la prima a fallire. Poi, tra le altre curiosità, una ce ne ha raccontata proprio poco fa Luca Riboldi: Tiscali arrivò a capitalizzare quanto Fiat. Grazie ad Enrico Marro per essere stato con noi, a presto per i tuoi grazie prossimi voi, racconti, dalla Air Pocket appunto la bolla d'aria per i titoli tecnologici. Tra l'altro ricordatevi bene anche di Goldman Sachs, perché su Goldman Sachs fra un po' vi faccio il domandone. Per cui, Luca Riboldi, tornando a lei, allora, titoli sopravvalutati, occorre cominciare a considerare l'idea che il prezzo di borsa non rappresenti più i fondamentali? Diamo qualche spunto concreto ai nostri ascoltatori, ammettendo che abbiano tutti ben diversificato il proprio portafoglio e che abbiano anche una quota di tecnologia statunitense tra i propri investimenti. Secondo lei come ci si deve approcciare in questo momento? Con cautela, oppure queste correzioni di questi giorni, Goldman Sachs o altre case di investimento che ne dicano, sono destinate ad essere degli aggiustamenti temporanei e comunque la tecnologia americana continuerà ancora a dare grandi soddisfazioni a tutti? Lei cosa ne pensa? Noi abbiamo una visione sicuramente prudente su questo settore, diciamo non neanche proprio nelle ultime settimane, ma già da qualche mese, perché sono società, ecco, facciamo una premessa, sono società eccezionali, sono società che non hanno debiti, anzi sono società che hanno parecchia cassa in portafoglio, quindi queste saranno società che in una futura recessione, perché noi ci dimentichiamo che le recessioni spesso arrivano e sempre arrivano, diciamo più che spesso, e sono tanti anni che non abbiamo una recessione economica. E tra l'altro, se guardo la curva americana, cosa che ho visto pochi commenti su questo argomento, ma lo volevo evidenziare un attimo, La curva dei tassi americana si è molto appiattita, che è un segnale che alza qualche campanello d'allarme su un possibile arrivo di una recessione americana, cosa che al momento nessuno ne parla, ma se guardiamo dove era la curva americana, cioè il differenziale tra il titolo a 2 anni americano e quello a 10 anni, che tipico che si guarda per la curva, cioè guardavamo un anno e mezzo fa stavamo a 250 punti di differenza, cioè il tasso 2 anni stava quasi a zero, il decennale era intorno al 2,5, oggi siamo con un decennale che ieri è sceso sensibilmente al 2,10 dopo l'ennesimo rialzo dei tassi Fed, il tasso 2 anni è 1,30, quindi non siamo ancora a curva invertita, no? Che indica proprio un'alta probabilità di recessione, però ecco, anche questo fattore qui è un fattore che comunque probabilmente sta dicendo che la crescita economica americana probabilmente nei prossimi 2 anni sarà forse un po' meno forte di quello che ci si attendeva. Beh, certo, anche non perché tutti ne parlano, Riboldi, la interrompo un attimo, però in realtà, non indicando ieri sera Janet Yellen con chiarezza quando farà il prossimo aumento dei tassi di interesse, forse lo ha voluto dire, dice guardiamo ancora i prossimi indicatori, ma mentre molti pensano che il prossimo aumento in settembre arriverà quasi sicuramente, in realtà lei non lo ha fatto capire, segno che forse in realtà queste considerazioni che lei ha appena fatto ce le ha bene in testa. Ce l'ha sicuramente in testa, anche perché l'inflazione non sta salendo, anzi sta leggermente scendendo intorno adesso all'1,7%, quindi un po' lontano rispetto a quel livello del 2%, che è quello che ha in testa la Federal Reserve e anche la BCE. E poi sicuramente c'è anche un po' il fattore ovviamente dei flussi, no? Perché il tema che ha portato anche le borse a salire è dovuto al discorso che i bilanci delle banche centrali sono cresciuti tantissimo. Tanto per dare un esempio, il bilancio della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, è aumentato di 10 volte dal 95 ad oggi, ma soprattutto con un fortissimo incremento dal 2008-2009 post crisi finanziaria americana, no? Da lì in poi non è fatto altro che salire in maniera quasi verticale e si è fermato solamente qualche mese fa e siamo oggi a circa 5 trilioni di dollari. Quindi questo per sintetizzare, Riboldi, perché adesso devo andare di nuovo in pausa che c'è la pubblicità. Il tema è comunque cautela verso tutto il mercato americano, non solo verso la tecnologia. Questo è il messaggio che vuole far passare. Esattamente, con direi il tema tecnologico, parliamo di società che nel lungo termine sicuramente sono società di grande successo, sono convinto che fra 5 anni tutte queste cose che abbiamo detto avranno valutazioni più alte di oggi. Nel breve, qualche tema sulla valutazione, visto che siamo arrivati tipo Amazon a qualcosa come 140 volte gli utili di quest'anno, anche se cresce del 40% all'anno, più di 3 volte il tasso di crescita degli utili, sono livelli che fanno stare sicuramente in guardia. Benissimo, c'è il traffico, adesso ritorniamo tra poco pronti con il domandone. Vi anticipo già che ve lo faccio su una iniziativa che ha preso qualche anno fa Goldman Sachs, pure quella andò molto di moda per un lungo periodo, ogni tanto quel concetto che Goldman Sachs elaborò lo ritiriamo fuori, quindi rinfrescatevi un po' la memoria, a tra poco. Cuore e denari. Il domandone. Allora, Goldman Sachs è la blasonata casa di investimento che ha rilasciato questo rapporto sfavorevole sulla tecnologia americana che ha provocato qualche assestamento dell'indice nelle ultime settimane. Se ricordate bene, però, Goldman Sachs ama ogni tanto far parlare di sé, come ad esempio le è successo qualche anno fa quando si inventò un acronimo del quale in verità si parla ancora, con il quale descriveva un macro trend finanziario che riguardava un gruppo di paesi molto importanti, aree emergenti in particolar modo. Vi ricordate che cos'era questa sintesi? 800240024, non è difficilissima perché guardate, ne parliamo spessissimo. Da 0 a 10? Difficilina. 8. No, è facile 2. 8. Ah, sì. È difficile 2, quindi facile brava. 8. Benissimo. Continua ad essere con noi questa mattina Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim. Esploriamo un po' così l'andamento della tecnologia americana. Le società che sono state oggetto di vendite negli ultimi giorni sono tra le favorite di mercato. Se guardate il grafico, hanno letteralmente un'impennata appunto verso l'alto e quindi qualche aggiustamento ogni tanto ci sta. Ma la politica monetaria, Riboldi, come condiziona la tecnologia americana? Queste società, ci raccontava prima Enrico Marro, sono piene di soldi, piene di liquidità, per cui diciamo non hanno bisogno di indebitarsi per continuare a sostenere il loro trend di crescita e la crescita del loro business, e per cui è importante dove vanno i tassi di interesse negli Stati Uniti per queste aziende? Sì, importante non per il costo del denaro, perché come giustamente ha detto non hanno debiti, anzi hanno molta cassa, quindi quello non è un problema. Però possono prestare loro alla Federal Reserve fra un esattamente, po', praticamente possono essere prestatori di ultima istanza. No, quello che invece è molto importante nella valutazione di queste società è il fatto che in una situazione di bassa inflazione, abbastanza bassa crescita economica, il mercato è disposto a pagare molto per la crescita. Queste sono aziende che crescono, che hanno molta visibilità sulla crescita, perché cresceranno ancora per i prossimi anni, perché hanno sempre più forza, sempre più guadagni di quote di mercato, quindi il mercato ha aumentato moltissimo le valutazioni di questi titoli proprio come espansione dei multipli. Se uno guarda la media delle stime di utili di queste 5 società di cui abbiamo parlato, FAMG, negli ultimi 6 mesi in realtà è stata minima la revisione al rialzo degli utili, eppure le società sono salite del 30% mediamente dall'inizio dell'anno, quindi è stata quasi esclusivamente un'espansione dei multipli, legata al fatto che tassi molto bassi continuano a far arrivare liquidità sul mercato azionario, e fino a che questo QE delle banche centrali, finché i bilanci non cominciano a contrarsi, cosa che la Fed tra l'altro ha cominciato ad annunciare, progressivo ma inizialmente lento, diciamo, riduzione del QE, è chiaro che questi tassi tendono ad aiutare le valutazioni. Il rischio che potrebbe, diciamo, far anticipare una correzione prima del movimento all'ingiù dei bilanci delle banche centrali, la contrazione dei bilanci potrebbe essere una recessione economica americana che farebbe calare gli utili, perché il mercato si dimentica che queste sono società ad alta crescita ma che sono anche cicliche, no? Perché comunque hanno una componente sia di rischio ciclico sia di rischio regolatorio. Adesso non ne parliamo più, ma se domani ci fosse qualcuno che comincia a parlare di antitrust per la forza eccessiva di alcune di esse, o ci fosse un problema di cyber attack che per esempio abbiamo visto essere molto concreto negli ultimi anni, ecco, ci potrebbe essere qualche rischio. Siccome sono prezzate per la perfezione, ecco, non è un discorso di qualità sulle società che sono e rimarranno secondo me eccezionali, ma è un problema di valutazione raggiunta che, come dice Goldman, è un po' esagerato. Allora, intanto io incido sulla pietra le sue parole a proposito del pericolo non tanto di scoppio di bolla tecnologica quanto di tutta una complessiva recessione dell'economia americana, perché appunto, siccome in pochi ne parlano, magari dovessimo essere mai degli antesignani rispetto a qualche argomento, vediamo un po' se secondo lei, se mai si dovesse vedere qualche segnale concreto rispetto a questa inversione di tendenza dell'economia statunitense, per cui si valorizza tanto la piena occupazione, insomma i dati in realtà vengono considerati molto buoni, quelli di natura macroeconomica, secondo lei quando vedremo un segnale invece di questa correzione macro? Ma guarda, le recessioni sono difficilissime da anticipare, è molto molto difficile, però siccome lei me lo ha ribadito due volte questo concetto stamattina, però, evidentemente, stiamo guardando con una certa attenzione appunto questo tendenziale appiattimento della curva americana. Fra l'altro, curiosamente, notavamo che anche la curva cinese si è appiattita, addirittura leggermente invertita, quindi sembrerebbe che anche in Cina si sconti qualche rallentamento futuro, quindi stiamo un po' con 10 occhi aperti su quello che è il tema economico dei paesi che sono cresciuti di più. Quindi è difficilissimo prevedere il momento, però sicuramente, cioè, dopo tanti anni di crescita bisogna stare attenti, anche perché se ci fosse veramente un rientro dei bilanci delle banche centrali, quindi ridurre l'espansione che hanno fatto fino adesso, potrebbe causare un calo dei mercati finanziari che sono stati spesso loro stessi la causa poi dei rallentamenti economici. Non dimentichiamoci proprio il 2000 e il 2008-2009. Senta, ritornando per un attimo, abbiamo proprio due minuti di tempo prima di salutarci, al tema della tecnologia. Questa non è tutta uguale. Un conto sono le app, i telefoni, le telecomunicazioni, le infrastrutture, l'e-commerce, c'è di tutto in questo mondo. Voi quale ambito privilegiate? Secondo voi ci sono ancora delle potenzialità non del tutto espresse in questo comparto? Beh, guarda, i grandi temi secondo noi sono tre. Sono quello legato al cloud, e cloud è sicuramente siamo all'inizio di quasi un nuovo giorno, perché questo sta cambiando moltissimo, impatterà, diciamo, sia da leader, poi sono Amazon, Microsoft, Google. La tecnologia in termini di big data, cioè il fatto di gestire dati molto complessi, qui ci sono società tipo SAP, Oracle, Salesforce eccetera, che sono molto coinvolto, e l'altro grande tema è quello dell'intelligenza artificiale, su cui forse IBM con Watson sta un po' veramente facendo dei salti in avanti nel futuro pazzeschi. Ecco, credo che siano cose che sicuramente avranno un impatto rilevante nella vita di tutti i giorni. Poi forse, ecco, il tema dell'auto elettrica che è stata un po' forse esagerata sicuramente in America con Tesla, però è qualcosa che a livello di tecnologia sta cambiando e cambierà molto il mercato dell'auto. Insomma, un mondo molto diverso rispetto al 2000, come abbiamo ampiamente sottolineato sin dalla prima parte della trasmissione. Allora, avete risposto in tanti al domandone, non ne riusciamo a mandare in onda telefonicamente. Sì, Massimo da provincia di Reggio Emilia. Massimo, buongiorno. Cosa si è inventato qualche anno fa Goldman Sachs, di cui ancora parliamo? Se ricordo bene, la sigla BRIC. Bravo. Che sta per Brasile, Russia, India, Cina. L'acronimo che indicava le economie a più alto potenziale, esatto, appunto, di crescita. Grazie, quelle che avrebbero dominato l'economia mondiale nel prossimo mezzo secolo se lo inventò lo coniò Jim O'Neill, direttore della banca di investimento appunto Goldman Sachs, nel 2001. Luca Riboldi, grazie per essere stato con noi. Si inventi anche lei qualche acronimo che così passa alla storia come Jim O'Neill di Goldman Sachs. Grazie mille. Buona giornata. Buona giornata. Mille, allora, noi torniamo domani. Io non ci sarò. Ci sarai tu? Bene, ti lascio, mi preparo per l'esame di maturità, vai a studiare. Mamma mia, non lo passerei più. Buona giornata a tutti, a domani.